Buongiorno a tutti, porto Chiara Stella Serrato, sono segretaria provinciale di Proprio Fare Sapere, dirigente scolastico del 30° Circolo Didattico Varini di Napoli Secondigliano. È un piacere oggi trovarsi qui insieme, dirigenti scolastici e RSU. Credo che la situazione, la complessità della situazione della scuola in questo momento possa essere affrontata solo con una comune denominatore, qualcosa che ci deve, una linea comune, che è quella della condivisione. E quindi questi due temi apparentemente distanti in realtà trovano questo comune denominatore, appunto condivisione, quello che ci può guidare nella gestione di un momento estremamente difficile. Fare rete, in particolare in questo momento sto pensando alle reti di scopo, quelle che saranno frutto di una scelta strategica di gestione che ci guiderà nella gestione dei problemi che riguardano la formazione, che riguardano la gestione per esempio di quello che si chiama l'organico, di potenziamento oggi organico dell'autonomia. Solo facendo rete, solo con una gestione condivisa, così come all'interno di ciascuna delle nostre scuole, l'idea di affrontare condividendo attraverso contrattazione, una concertazione, una condivisione che sta alla base di tutto, alla base di ogni comunità educante, ci deve essere un'idea comune di scuola condivisa, e allora anche la contrattazione diventa semplicemente un momento per definire ruoli, per definire strategie, e anche nella contrapposizione, se in alcuni momenti ci deve essere, ma condividendo una stessa idea di scuola. È un grande piacere per me oggi ascoltare i relatori che ci aiuteranno ad approfondire questi temi e ci daranno un supporto come dirigenti e come RSU all'interno ciascuno delle proprie realtà scolastiche per affrontare questo momento particolare della vita della scuola. Auguro a tutti buon lavoro.